molti ascoltatori stanno chiedendo, ma insomma, scopro adesso il vostro progetto, come posso fare a candidarmi? Allora non hanno sentito le altre puntate. Vabbè, allora adesso andate su almeno due, possibilmente tre allenamenti invece con i pesi, sempre per le zone che sono come incriminate, un pochino più ostiche, più difficili da trattare. Sul sito di Radio 24 trovate l'immagine di Cuore Denari Expo, dentro ci sono vedete, tutte due le notizie, due bellissime donne con le cuffie, allora fermatevi. Se superate la barriera rosa e andate in onda, riceverete il vero kit dell'inviato di Cuore Denari. Tu ce l'hai? No, però allora se fai i mercati te lo regalo. Va bene. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Maccherone, mai prorogato, io me ne magno. Cuore e Denari Expo. Avete superato gli ante intesi come 50 e avete la sensazione che qualcosa sia cambiato, stia cambiando, ad esempio il metabolismo non è più quello di una volta e che qualche cuscinetto di grasso si sia accomodato nei posti sbagliati o ancora che l'energia mentale e fisica inizi a perdere qualche colpo, può capitare. Però se siete in questa situazione fermatevi perché siete arrivati a Cuore Denari Expo, il programma che porta la filosofia di Expo nelle vostre case e la traduce nella pratica quotidiana. Obiettivo: nutrire il nostro benessere nel rispetto di quello del pianeta, riducendo gli sprechi e possibilmente spendendo meglio. E certo, noi oggi siamo al secondo appuntamento degli 8 previsti, tanti infatti sono i profili che abbiamo pensato di seguire. Abbiamo inaugurato mercoledì scorso con i sedentari, la nostra testimonial è Anna Maria, che sentiremo certo nel corso di questa puntata. Quindi se siete sedentari seguitela anche voi sulle nostre pagine. Oggi invece è la volta degli over 50 o chi sta per arrivare ai 50. Esatto, è lì proprio su quel filo di lana, come si dice. Però poi toccherà anche allo stressato, allo sportivo, ai conviventi senza figli, alla coppia con figli piccoli, al vegetariano, alla donna in attesa. Ciascuno di noi si può riconoscere in uno o più profili. Quindi andate sulla pagina di Radio 24, cercate il questionario, compilatelo e poi che cosa faremo? Noi analizzeremo tutte queste informazioni, ma nel frattempo partiamo. Allora, le selezioni sono ancora aperte, quindi fatevi avanti, diventate testimonial del profilo in cui maggiormente vi riconoscete o sostenete i vostri beniamini. Ma è tempo di salutare il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, direttore scientifico di Eurosalus, la piattaforma che ospita i nostri questionari e che quindi ci accompagna in questa avventura. Dottor Speciani, prima di mettersi al lavoro ci dia un po' il polso della situazione, che cosa è successo e che cosa sta succedendo in rete? Ma è simpaticissimo, intanto buongiorno a tutti. E devo dire che i risultati di presi in diretta, perché riusciamo ad avere i risultati direi in tempo reale, ci dicono fondamentalmente che abbiamo sempre in chi si propone una dominanza femminile che non guasta, posso dire, questo dal punto di vista pratico, per cui abbiamo un 68% verso il 32%, età media, perché prima dicevamo anche quelli che sono sul limitare degli ANTA, in realtà i questionnaires proposti hanno un'età media di 59 anni, quindi andiamo dai 50 ai giovani 74enni, che è il più in età, diciamo, sì, più in avanti tra tutti. Però molto velocemente abbiamo un cambio radicale rispetto a quello che c'è stato precedentemente, perché mentre per i sedentari abitavano in maggior parte nelle grandi città, abbiamo avuto la rivincita della provincia. Ah, ma bellissimo, piccoli paesini, piccole città, abbiamo circa il 60-70% delle persone che hanno parlato, che ci hanno mandato il questionario, che in realtà vivono in piccole realtà. Tra l'altro questo da un punto di vista del denaro, diciamo, si cambiano anche alcune abitudini di acquisto, anche alcune modalità che sono estremamente interessanti. Cosa vogliono queste persone? Intanto c'è un 45% che vuole mantenere il peso forma, però devo dire che poi ci sono quelli che hanno i doloretti articolari, eccetera, quindi questi sono gli obiettivi. Mediamente un terzo sono quelli che ammettono di mangiare molto tra un pasto e l'altro, quelli che lo fanno raramente, quelli che invece sono ligi, e vedremo come sarà importante poi nel seguito. Riguardo al fatto di fare attività fisica, non male, se io posso dire, leggere degli ma mi piace questa cosa. Poi fondamentalmente il motivo, quasi il 50% rimpiange i propri 40 anni, il 23-24% rimpiange i 30, e però c'è anche un 30% che dice no, io sto bene in questa età e quindi voglio solo metterla a posto, che è quello che andremo a fare tutto sommato con l'impostazione generale, con la nutrizione che andremo a dare come consiglio. Perché, dottor Speciani, over 50 è un'età che potremmo definire della svolta, una seconda adolescenza, no? Perché proprio come in adolescenza ci sono dei cambiamenti importanti nel corpo e nella mente con cui necessariamente dobbiamo fare i conti, ma al tempo stesso è un'età che può riservarci, come lei ha anticipato, sorprese straordinarie. Diciamo che è una bella opportunità per sperimentare nuove strade. Guarda, in un'età in cui ci sono caratteristiche sicuramente positive e caratteristiche negative, ad esempio, non so dove mettere il fatto che uno, andando avanti nell'età, dorme un po' meno. Io lo metto tra quelle positive, perché vuol dire che c'hai più tempo per fare delle altre cose, se hai voglia, se hai uno spinta e uno stimolo. Certo, tra le negative, che effettivamente il metabolismo un po' cala, che si riducono un pochettino l'elasticità delle articolazioni, che possono essere mantenute attive con un buon allenamento. Tra quelle fondamentali che io metto, anche perché quando chiedono a me, io avrei partecipato da sessantenne, avrei partecipato volentieri al questionario, no? Non come coach, ma come persona che partecipava. Però ne conosciamo di bravi, guardi. Esatto, che possiamo suggerire qualcuno. Secondo me c'è un certo livello di saggezza, cioè di capire il giusto uso del tempo e un piacere del gusto, nel senso che vedremo le ricette che abbiamo studiato con Ribaldone, sono ricette che vanno anche a stimolare questo aspetto, il darsi una gioia nel fatto di mangiare, che poi questo serve anche a motivare il metabolismo, bene, ma questo è un dato fondamentale. Quante volte l'abbiamo detto che il termine dieta non deve essere associato solo ed esclusivamente ad un regime di restrizione, ma di qualità della vita, di alimentazione sana, insomma di stile di vita. C'è tutta una serie di cose che Nicoletta mi ha insegnato in tutto questo periodo e che io ormai ho fissato in testa con grande fermezza. E allora a questo punto non resta che andare a conoscere il nostro over 50. Andiamo. Pier Mario ha 66 anni, è di Torino. Sposato da 43 anni, abbiamo insieme avuto Maria Rosa e io tre figli, uno 38 anni, la seconda 37 e il terzo 22. Se dovesse descriversi con un piatto sarebbe... Tagliatelle, sempre e comunque. Mettiamo dentro di tutto, può anche andar bene del pomodoro in certi momenti, ma anche il burro e salvia va benissimo. Creativo, con un grande spirito di adattamento, ma allo stesso tempo presuntuoso e invadente. Pier Mario ama descriversi così, ma cosa dicono gli altri di lui? Sono bravo! I suoi piatti preferiti sono... I piatti fondamentali sono quelli della dieta mediterranea, ma quando sono in giro per il mondo sono curiosissimo, l'unica cosa che non ho ancora mangiato sono le formiche. In famiglia è Pier Mario a dedicarsi alla spesa. Facciamo una volta alla settimana al supermercato e quasi sempre sono io da solo che ci vado, dando un occhio attento alle offerte speciali, prediligo robe di marca ma sempre quando sono di basso prezzo. Pier Mario, sei il nostro candidato per la categoria degli over 50 a Cuore Denari Expo. Pronto? Oh mamma mia, ho l'imbestio per il movimento. Eccolo qua Pier Mario, l'imbestio per il movimento. Benvenuto. Grazie. Sei pronto a fare da capofila degli over 50? Ti impegnerai in questa sfida? Hai due coach, non direi severi, ma molto esigenti, Mi sto preparando, sto imparando la mia lezione, ripassando quello che serve e sono carico. Sei carico, quindi alla fine di questa puntata troverà tutto pronto sul nostro sito. Mi raccomando però, tu devi farci anche sapere come sta andando, se le ricette ti piacciono, se i consigli ti calzano a pennello. Noi ti seguiremo sia su Facebook che su Twitter e i nostri ascoltatori naturalmente potranno interagire con te dandoti consigli, suggerimenti suggerimenti, incitandoti e anche un po' bacchettandoti se non seguirai tutte le indicazioni. Quindi hai ancora tempo per ritirarti, vai avanti? No, le sfide sono parte della mia vita, quindi figuriamoci se mi tiro indietro. Ok, allora pronto, intanto tu seguici e poi passo a passo vedrai che in 4 settimane, dottor Speciani, come trasformerà il nostro Pier Mario? Bene, anche se secondo me non è che abbia molto da trasformarsi, perché ho visto i suoi dati, lui ha un indice di massa corporea di circa 26, che quindi è un po' sovrappeso, ma anche se dice che c'ha l'imbestio per il movimento, poi in realtà si muove, fa attività fisica, quindi ha mantenuto una buona tonicità e un buon livello. Ci sono proprio degli obiettivi che secondo me sono fondamentali. Partiamo dal fatto che Andrea Ribaldone ha costruito delle ricette splendide, e poi raccontiamo cosa fa il ballone, ma lo lasciamo a dopo. E quindi ho cercato, proprio come stimolo generale, di mantenere un loro piatto fondamentale e dare gli stimoli decisi per stimolare il metabolismo. Ci saranno anche le tagliatelle? Ma secondo me sì, già partiamo. Dai. Guarda, il primo piatto della prima giornata sono tagliolini al ragù di manzo. Fantastico. Allora, Pier Mario, grazie per essere stato con noi. Continui a seguirci. In bocca al lupo da me e da Deborah. Certo. Intanto l'abbiamo già nominato più volte. Lo vogliamo salutare, è già in linea con noi Andrea Ribaldone. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, ciao Tidio, ciao. E a tutti quanti. Senti, cuoco stellato ed executive chef di Identità Golose, che è questo ristorante dove si danno appuntamento tutti i cuochi più bravi d'Italia all'Expo, dove è andato anche a mangiare il nostro, non solo Attilio, anche il nostro Matteo, dicevo, il grande Matteo Renzi. Andrea. Sì, sono qua proprio all'Expo in questo momento, fantastico, contro tutti i gufi, 200.000 persone al giorno, insomma, è veramente bello, guarda, non posso dire altro. Sì, adesso sta partendo l'altra polemica sul tenere aperto fino a mezzanotte, perché se non ne troviamo una al giorno qua non siamo contenti, no? Perché insomma questa cosa andrebbe a discapito dei locali milanesi, ma vabbè, non ci sappiamo mai godere un buon momento. Senti, e quindi lì grande lavoro, tu ti sei portato tutta la tua brigata dei due buoi di Alessandria lì all'Expo? Bravissime, io metto la brigata a disposizione dei grandi chef, il lunedì e martedì sera c'è anche la mia cucina, quindi ci divertiamo, è fantastico collaborare, è passato Massimo Botture, è passato Ugo Alciati, adesso c'è Marco Stabile, Norbert Niederkofer, quindi, e poi verranno Cracco, Oldani, Bacciolo, insomma tutti i grandi nomi della cucina italiana e internazionale. I top di gamma. Allora, dottor Speciani, noi quindi partiamo, ci spiega un po' la strategia che utilizzerà per portare il suo over 50, che abbiamo già visto che fa già le cose per bene, dritto alla meta, con gusto e soddisfazione. Come riuscirà a tradurre, questa è un po' la sfida che noi vogliamo, abbiamo colto in Cuore Denari Expo, a tradurre i temi di Expo nella vita quotidiana? Allora andiamo con dei messaggi molto precisi, diretti per Pier Mario. Pier Mario sta a ascoltare molto bene, ma tutti quelli che sono in over 50 e che stanno muovendosi in questa direzione, regolare gli orari dei pasti significa che la prima colazione ci deve essere, il pranzo ci deve essere e la cena ci deve essere. Definiamo come ogni singolo pasto deve avere un rapporto corretto di bilanciamento tra le composizioni interne, carboidrati da un lato, proteine dall'altro e vegetali dall'altro. Quindi chi si mangia solo un pezzo di salame piuttosto che solo un pezzo di tagliatelle in realtà commette un errore. Bisogna unire le cose in maniera adeguata, con rispetto anche degli equilibri individuali. Cercare la qualità alimentare. Chi cerca di mangiare dei cibi raffinati e perde di vista invece l'importanza dell'integrale è niente, non fa parte del nostro gruppo, è meglio che si tolga di torno subito. E poi muoversi perché è un'integrazione potente per migliorare il metabolismo. Allora Deborah, anche oggi chiediamo l'aiuto naturalmente dei nostri ascoltatori, abbiamo il kit dell'inviato. Esatto. Abbiamo pensato per loro ad una convocazione. Allora, agli amici che ci stanno seguendo chiediamo di dirci che cosa hanno cambiato nel loro stile di vita per prevenire o affrontare, possibilmente con successo, quei cambiamenti che la svolta degli ANTA porta con sé. Perché mi guardi? Ma guarda, è stato del tutto un caso. Ma guarda, anche lei, no, è proprio in cattiva fede, ma non è così. Guarda che io sono lì per andare verso quel traguardo. Siete più attenti alla vostra alimentazione? Avete iniziato a fare attività sportiva? Vi siete invece messi in una condizione di attesa? vi siete rassegnati, che cosa vi piacerebbe cambiare di voi e che cosa invece vorreste assolutamente mantenere e non perdere. Quindi una bella batteria di domande, il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24. Chiamateci, noi aspettiamo naturalmente i vostri interventi, i vostri consigli. Per ricevere il kit, cosa dovete fare? Dovete superare la barriera rosa. Un nostro ascoltatore ci ha scritto subito un messaggio all'inizio del programma: chi è la barriera rosa? Il nostro centralino Rosa Longobardo, quindi insomma un po'... È effettivamente una piccola barriera. Una piccola barriera. E quindi per le persone e per i nostri ascoltatori che andranno in onda con il loro consiglio, la loro raccomandazione, una piccola strategia, è pronto il kit, che è un grande kit, perché abbiamo una borsa, c'è una maglietta, la penna, l'agenda, il cappellino antipioggia. Anche perché tra l'altro i nostri ascoltatori nel corso della puntata li invitiamo un po' anche a fare gli inviati di Cuore Denari Expo al supermercato, al mercato, per andare a caccia dei prezzi e dei prodotti, per cui magari nelle prossime settimane potrete andare bardati con tutto il nostro kit. Allora, dottor Speciani, noi sappiamo già che lei punterà sulla colazione robusta. Le ragioni le conosciamo bene, perché è il primo pasto della giornata, quello che conduce il gioco, perché dà messaggi, direi ordini, al metabolismo di mettersi a lavorare per bene. Quindi che cosa non deve mancare nella colazione degli over 50? È fondamentale. Andiamo proprio sul fatto che va fatta entro un'ora dal risveglio, sicuramente. Va fatta seduti, in modo che uno possa avere e dedicare il tempo a masticare e a miscelare i vari cibi dovunque, anche se uno, non solo se uno è in vacanza o se è in giro, ma nella quotidianità è la cosa più importante. E l'elemento cardinale è quello di distribuire volumi. Voi immaginatevi la Y rovesciata del fate l'amore non fate la guerra, no? Come un piatto diviso in tre, fondamentalmente significa che in volume, perché va confrontato proprio un volume visivo in cui dobbiamo distinguere carboidrati, ad esempio pane, pasta, brioche, tutto quello che possa essere, piuttosto che non dall'altra parte proteine. Quindi abbiamo sia quelle animali, che può essere carne, pesce, prosciutto, ma uova, oppure latticini, oppure mandorle, oppure nocciole, in modo da comporre una situazione in cui se uno mangia due fette di pane, immaginiamo il volume di due fette di pane integrale per favore, dall'altra parte ci devono stare circa due uova e otto noci, cioè dobbiamo rifare lo stesso volume e lo stesso di frutta e di verdura, che significa avere una mela e tre albicocche. Normalmente la gente dice: ma non posso mangiare tutta quella roba lì. Infatti, bravo, riduci un pochettino di tutti e tre i punti e arrivi ad un volume più equilibrato, ma in cui l'insulina non viene stimolata. Perché uno dice: che cos'è che fa ingrassare, i carboidrati, le proteine o la frutta e la verdura? Nessuna dei tre, l'insulina. Allora dobbiamo fare in modo che il rapporto equilibrato tra questi componenti determini non uno stimolo iperglicemico che ti fa ingrassare, ma qualcosa che ti mantiene in equilibrio e non ti fa venire fame per almeno 5-6 ore successive. Andrea, il dottor Speciani so che ti ha briefato a dovere, come tradurrai nella pratica le sue indicazioni? Punterai sulla scelta dei prodotti, sulle tecniche di cottura? Dacci un po' un assaggio di quello che ci aspetta, stuzzicaci un po'. Guarda, allora innanzitutto mi preme dire che lavorare con Attilio è bello, perché sai, un cuoco la prima cosa che pensa è il gusto, e dice, quando si parla di medicina, di diete, sempre un po' ti viene paura per chi fa il cuoco. In realtà Attilio non nega mai, anzi dice un terzo, è questo il giusto equilibrio, come appena detto. E quindi mi ha dato, grazie, la possibilità, Andrea, di divertirmi, grazie a te, Attilio, davvero, e di giocare con il cibo. Allora, la prima regola, la geletta Attilio, ma la ripeto, è: non si fa un buon piatto senza una buona materia prima. Questo mettetevelo in testa sempre. A volte si dice: cuochi aggiustano i piatti. Non è così, bisogna partire da una materia prima di qualità. E a volte basta una buona pasta, un buon parmigiano e un goccio d'olio extravergine, non c'è bisogno di tante cose, eh? Quindi non è per forza caro, non mettiamoci in testa idee sbagliate, però è buono, quello sicuramente, è di qualità, è italiano. E cosa vi posso dire? Oggi la mia proposta è quella di questo tagliolino integrale con un ragù di manzo, zucchine e pomodori, quindi un terzo, carboidrati, proteine e verdure. E cosa facciamo? Facciamo la pasta con una farina integrale, perché diceva prima Attilio, usiamo l'integrale perché non solo io faccio il cuoco, quindi non solo ci fa bene, ma è anche più saporito, è davvero buono. Quindi facciamo la classica pasta, farina e acqua, la tiriamo, la tagliamo a coltello e poi facciamo un ragù con, non usiamo filetto, sottofiletto, tagli costosi, La parte di coscia, la fesa va benissimo, è una parte magra, molto buona, andate al vostro macellaio di fiducia e non c'è problema, la trovate sempre e costa molto meno di altri tagli. L'importante, il segreto è fare una cubettata di questa fesa, tagliamo a rondelle anche le zucchine e saltiamo il tutto per pochi istanti in padella, così la carne non diventa troppo dura, rimane tenera, rimane succosa, quindi veramente un ragù espresso, io lo chiamo, veramente veloce. Io preferirei a portarmi parte... Andrea a casa, pensa che bello, lo prendiamo. Il ragù espresso stamattina è interessante. Sì, dottor Speciani, quindi un terzo, questa è la regola, colazione abbondante, equilibrio. In ognuno dei tre pasti è importante questa distribuzione, e quindi noi tendiamo a dare, e ho seguito Andrea nelle sue preparazioni, lui tendeva a dare al pranzo una buona dimensione, io ho cercato di bilanciare nel menù complessivo, ho venuto una sequenza di 4 settimane belle, buone, positive, in cui la gente può veramente gustare e contemporaneamente mantenere l'insulina sotto controllo. Un po' di trasgressione lecita, perché Andrea Ribaldone, ma Deborah ed io lo sappiamo bene che lei non vieta mai, no? Cerca di concedere, lo do istantaneamente. Allora mettiamo che uno improvvisamente durante un pomeriggio, perché non ha fatto una buona prima colazione, deve per forza mangiarsi un cioccolatino, così. Poi lui, per Mario, è piemontese, Andrea anche, e quindi verrà fuori un gianduiotto sicuramente incredibile. Dice: questa è una dominanza di grassi e carboidrati, come facciamo a bilanciarlo? Allora ci mettiamo dentro 8 mandorle, cioè le mandiamo con 8 mandorle e mezzo mandarino. A quel punto è il cioccolato con qualche mandorla che è molto proteica, al 35% di proteine, e un pezzettino di frutta a fianco. A quel punto abbiamo... E sono carboidrati. E sono frutta, il vegetale, la parte che dicevamo. Quindi abbiamo un terzo, quella cosa, a parte che è gustosissima lo stesso, perché un gianduiotto con 5-6 mandorle fa il suo mestiere, più, e non ci fa venire fame per 5 ore successive, mentre classicamente il gianduiotto, se uno lo mangia da solo, dopo 2 ore, dopo 20 minuti, uno ne rimangia altri 4. Apre un buchino, poi ti viene, perché l'appetito viene mangiato. Allora, noi continuiamo a seguire naturalmente i consigli del dottor Speciani e di Andrea Ribaldoni, ma è tempo di raccontarvi un po' anche sui mercati che cosa succede. Finalmente vediamo una buona giornata, quindi non vedo l'ora di raccontarla. Wow. A tra poco. Cuore e denari. Dai, usciamo a fare la spesa, mandaranci, mele, frutti esotici. Il mandarancio, pensavo che lo dicessimo solo nelle Marche, invece è un termine molto diffuso. Allora adesso portiamo i nostri come over 50. Come dite voi in Piemonte? Mandarancio. In Piemonte lo mandarancio. Dite Dottor Speciani, come dite voi in Lombardia? Mandarancio. Il mandarancio, vabbè, ho fatto la mia gaffe, posso? Una volta ogni tanto, non posso sempre mica essere così. È il nostro mandarancio. Portiamo adesso, fatemi ritornare sul binario della trasmissione, portiamo i nostri over 50 con le loro famiglie. In realtà Pier Mario ci va da solo a fare la spesa, invece la nostra Anna Maria, la candidata, va col marito il venerdì. Perché andiamo a fare la spesa. Perché gli fa portare un po' le borse e... Ecco, Luciano Mazzone, amministratore di Clicca Promo Pazzi per le offerte, va da solo o con la famiglia? Io vado da solo, purtroppo, ed è un gran peso perché con tutte le borse o l'acqua quando devo comprarla. Vabbè, l'attività fisica fa sempre bene, lo sa, per cui anche quella un pochino incide anche poi sulla qualità della vita. Allora, Clicca Promo Pazzi per le offerte, il portale che compara i prezzi e le offerte della grande distribuzione, ci sta aiutando in questo percorso, ci permette di individuare molte opportunità di risparmio, naturalmente lo fa anche in questa settimana a beneficio dei protagonisti di Cuore e Denari Expo. Vi ricordo che è online la sezione speciale del nostro sito dedicata proprio al progetto Cuore Denari Expo, dove trovate tutti i consigli settimana dopo settimana per ciascuna categoria per migliorare le abitudini in cucina, sia dal punto di vista del cuore che da quello dei denari. E trovate anche il link al nostro questionario per partecipare. Nella sezione dei prezzi trovate, oltre a qualche news sullo stato di salute del nostro carrello della spesa, le rilevazioni settimanali di Clicca Promo per le nostre categorie e per i diversi ascoltatori che stanno partecipando al programma. Mazzone, ricordiamo come si compone questa tabella che i nostri ascoltatori possono leggere online. Voi fate un gran lavorone per noi per elaborarla. Esattamente, partiamo dal menu consigliato per i vari profili, andiamo alla ricerca dei migliori prezzi sulle varie merceologie, sui vari prodotti indicati nella dieta e li segnaliamo agli ascoltatori, là dove ci sono opportunità di risparmio con le offerte dei supermercati o con i nostri coupon digitali. Benissimo, allora prima di andare ai prezzi per il nostro Pier Mario, il nostro over 50, Mazzone, però vorrei fare una richiesta precisa ai nostri ascoltatori che in questo appuntamento speciale del mercoledì vogliono e possono diventare inviati di Cuore Denari Expo e in questo caso inviati per i mercati e i supermercati delle vostre città. Se ci siete stati da poco stamattina e vi ricordate un prezzo, se proprio in questo momento magari con le cuffiette andate a fare la spesa, guardatevi bene attorno. Oggi scegliamo due prodotti sul quale vi chiediamo di fare un po' più di attenzione. Intanto il melone, un frutto che abbiniamo all'estate ma che qualcuno probabilmente ha già visto in giro. E poi pensiamo anche alla carne, visto che ha tanto sostenuto la componente proteica del nostro regime alimentare, il dottor Speciani. Allora stamattina controllate anche i prezzi del filetto di vitello. Come li trovate commercializzati? Quanto costano nel supermercato sotto casa vostra? Io non avevo idea, ci ho riflettuto stamattina, ho fatto la spesa ieri pomeriggio, sono due prodotti che non ho guardato, per cui non ho idea. In che formato li acquistate e per cucinarli in che modo? Quindi attivatevi all'800 24 00 24, fateci un reportage velocissimo in diretta. E continuate anche a usare l'800 24 0024 per raccontarci che cosa avete cambiato nel vostro stile di vita per prevenire o affrontare con successo quei cambiamenti che necessariamente la svolta degli anni porta con sé. Siete più attenti alla vostra alimentazione, avete iniziato a fare attività sportiva, vi siete messi invece in una condizione di attesa, siete rassegnati. Che cosa vi piacerebbe cambiare di voi e che cosa è cambiato? Chiamateci, raccontateci le vostre esperienze, dateci i vostri consigli, ma naturalmente potete diventare anche inviati chiedendo aiuto, facendo altro una domanda. Che, infatti. Allora, Luciano Mazzone, torniamo a lei. Torniamo alla nostra lista dei prezzi e delle opportunità di risparmio. La settimana scorsa abbiamo confezionato questa lista partendo dal menu proposto dai nostri coach per la nostra sedentaria, Anna Maria. Questa volta ci dobbiamo dedicare ai prezzi per l'over 50. Analizziamoli insieme, quanto si spende intanto, quanto si riesce a risparmiare, quali particolarità avete notato partendo dalla dieta, elaborando la vostra lista. Ma allora diciamo subito che il risparmio complessivo è come sempre abbastanza rilevante. Questa lista costerebbe a prezzo pieno intorno agli 80 euro, approfittando delle offerte si scende intorno ai 55, con un risparmio che si aggira intorno al 30% o in termini assoluti 25 euro. Alcune merceologie di questa lista sono particolarmente convenienti, pensiamo a tutto il mondo della frutta e la verdura, in particolare quella di stagione. Prima si parlava del melone, è un frutto che è possibile trovare nei supermercati in piena stagione intorno all'euro, euro e 50 al chilo, che quindi per la frutta e la verdura è veramente un ottimo prezzo. Oppure le mele, è possibile risparmiare anche fino al 50%, per fare un altro esempio puntuale. Quali sono i prodotti più costosi che abbiamo in questo carrello invece, quindi quelli che possiamo poi anche approfittando dei coupon, quelli che hanno risparmiato una percentuale più consistente? Ma allora diciamo che in termini assoluti la carne ovviamente ha il suo costo, prima ci riferivamo al filetto di vitello, è un prodotto che può costare intorno ai 20-25 euro al chilo, in offerta lo si può trovare anche sotto i 15 con un risparmio considerevole dell'ordine di un terzo anche in questo caso. Per quanto riguarda i coupon, uova, birra, yogurt alla greca, che erano nella lista ad esempio anche di settimana scorsa, offrono ottime opportunità. Certo. Beh, poi soprattutto, come ha detto Andrea prima nel suo intervento, filetto è proposizione, poi in realtà secondo me i tagli alternativi, che io mi diverto moltissimo quando vado a cercare, sono molto più, tra l'altro danno al macellaio l'idea di finalmente di fare il suo mestiere, no? Perché va a scovare dei pezzettini delle cose che costano molto meno e sono buoni uguali, anzi. Se si va dal macellaio naturalmente, perché lei sa che se si va al supermercato non esiste più la possibilità di trovare una figura di riferimento che ci sappia dare un'indicazione sul taglio giusto di carne o l'alternativa appunto a quelle che poi il coach propone, Mazzone. In qualche caso sì, in realtà ci sono dei supermercati con un banco servito dove è possibile chiedere. Però un po' meno. Io devo dire, la prima volta che ho portato la mia mamma a Milano e ha visto l'Esselunga dove non c'era nessun macellaio, ma guardate, cioè, ma come fai a vivere qua, su Marte, in sostanza. E senta, Mazzone, rispetto alla lista della spesa che abbiamo confezionato la settimana scorsa per Anna Maria e la sedentaria, che differenze fondamentali ha notato? Allora, ci sono dei punti in comune e delle differenze rilevanti. I punti in comune sono, per esempio, una grande rilevanza delle di noci o altre frutta secca di cui si parlava anche settimana scorsa. Non ci sono più cereali e legumi anche particolari come invece quelli nella lista del precedente. A proposito di differenze che riscontriamo, non solo fra le diverse categorie, ma anche fra le vecchie e le nuove abitudini alimentari che si traducono in vecchie e nuove abitudini di spesa, chissà quali cambiamenti ha notato in questa prima settimana di vita nuova la nostra Anna Maria, ma vogliamo sentirla? Dai, sentiamola, in linea con noi. Benvenuta Anna Maria. Buongiorno a tutti. Buongiorno Anna Maria. Possiamo darci come trafelata, come impegnata. Ci mancherebbe. Senti Anna Maria, com'è andata? Noi ti abbiamo seguita anche con i tuoi tweet, abbiamo visto che ti sei data da fare, passeggiate, pulizie con i pesetti da un chilo alle caviglie e che hai sostituito le ricette di carne con il pesce o gli hamburger del soia. Insomma, secondo noi sei stata bravissima. Veramente. Ma tu come ti senti? Io mi sento benissimo, devo dire che è molto piacevole come regime alimentare, tra l'altro ho riscoperto quelli che sono appunto legumi e cereali un po' particolari che insomma, avevo già come conoscenza, però poi la fantasia di utilizzarli in determinati modi sinceramente non l'avevo mai avuta, per cui avere già indicazioni su come utilizzarli, come insomma, introdurli con altro è stato molto interessante. Non so, penso per esempio all'abbinamento lenticchie e insalata verde, insomma devo dire che è stata proprio una piacevole scoperta. Infatti. Anna Maria, dal punto di vista invece della spesa, cosa è cambiato dalla spesa che eri abituata a fare prima, una volta a settimana con tuo marito, un gran carrello, adesso è più cara, spendi di meno o comunque anche se spendi un po' di più sei soddisfatta dal profilo qualitativo, per cui non ti pesa più di tanto sostenere magari un onere diverso, magari non è così, cosa è cambiato da questo punto di vista? Beh, rispetto all'onere diciamo che non è cambiato molto, ovvero i legumi li ho trovati a dei prezzi che sono abbordabilissimi, per cui ecco, anche i cereali anche quelli a prezzi normalissimi. Ho trovato solo caro, ma non so se poi in linea diciamo con i prezzi di mercato, quando ho acquistato la quinoa che l'ho presa a 5 euro, un pacchettino da 500 grammi, ecco, non ho idea perché l'avevo già conosciuta però anni fa. E non ho idea diciamo se il prezzo è in linea con il prezzo di mercato o se l'ho trovata io particolarmente cara rispetto agli altri prodotti acquistati. Ecco. Anna Maria, adesso noi dobbiamo sentire il traffico, ma poi qualche indicazione sul tema della quinoa ce la facciamo dare sia da Luciano Mazzone che da Attilio Speciani, ma magari su questo faremo anche un focus la settimana prossima. Che ti ne piace? Dici Nicoletta? Mi piace la quinoa, molto. Il bulgur, io adesso pure mi sto addentrando in questi. Ormai chi la ferma più? La Roscianina, dove mi andrà a finire? Guarda. A sentire le informazioni andiamo, sul traffico, andiamo ad esempio. Andiamo lì. Cuore e denari. Voglio fare l'inviato su Marte per un telegiornale spaziale. Voglio vivere sulla terra. Siamo sempre a Cuore Denari Expo e ora spazio ai nostri ascoltatori inviati e ai commenti dei nostri esperti presenti in studio. Deborah, vogliamo ricordare le convocazioni? Altro che, allora, per i denari ai nostri ascoltatori chiediamo un piccolo reportage su due prodotti, il melone e il filetto di vitello. State già notando la commercializzazione intanto per il melone in giro per mercati, supermercati, come li trovate commercializzati, quanto costano al supermercato sotto casa vostra o se andate andate al mercato, naturalmente abbiamo anche questa modalità di acquisto. Voi in che formato li acquistate? Per cucinarli in che modo? Avete notato un prezzo particolarmente caro o particolarmente conveniente? Vi invitiamo ad attivarvi, chiamare l'800 24 00 24, fateci un reportage in diretta su uno di questi prodotti e naturalmente avrete in cambio da parte nostra il kit dell'inviato, oltre che chiaramente una testimonianza interessante. E per la parte di cuore vi chiediamo che cosa avete cambiato nel vostro stile di vita, che cosa notate che gli ANTA hanno portato nel vostro fisico, nella vostra mente, quali sono le difficoltà che incontrate o invece i vantaggi che questa svolta della vita vi ha regalato. Chiedeteci anche consigli, dottor Speciani, arrivano tanti messaggi. La colazione abbondante conquista ma spiazza, perché ci sono delle persone che dicono: io mi alzo la mattina e non mi va giù niente, giusto il caffè. Risposta immediata, che certo. In genere è una delle obiezioni che riceviamo dalla maggior parte, però da un folto gruppo di persone, e gli si chiede di fare almeno due serate in cui la cena è ridotta davvero al minimo, e in questo modo c'è un stimolo al risveglio di una fame pesante, forte, e finalmente si rifasano i ritmi naturali. Mangiare alla sera è diventata un'abitudine indotta socialmente negli ultimi anni, che è contrastante con tutta quella che è la storia della nostra evoluzione, quindi qualche dubbio quindi, lo pone. Dobbiamo provare a tenerci leggeri almeno due volte alla settimana e vedere al mattino dopo che cosa succede. Sì, prima di dare, no? Di gettare la spugna. In modo brutale dico alle persone: lei stasera si mangi solo una mela, vedrà che domattina si sveglia con la fame giusta per iniziare una prima colazione vera, ed è vero, perché funziona bene. Porti la mamma all'Esselunga di Via Ripamonti, mi suggerisce l'ascoltatore, perché lì c'è tutto compreso il macellaio. Guardi, la lasciamo lì nelle Marche, dove abbiamo un ottimo rapporto con uno da tanti anni, quindi va bene così. Nicoletta, allora abbiamo delle telefonate, vogliamo certo, sentire i nostri certo, amici? Facciamo proprio un'imbarcata di telefonate. Dai, siamo pronti. Allora, stringete certo. Le cuffie. Clotilde da Bolzano, con un nome così non potevamo che iniziare da lei. Clotilde, benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Sì, è molto interessante la vostra trasmissione. Molto. Due kit allora. Perché anche io due anni fa mangiavo in modo scorrettissimo, perché pensavo che mangiando un bel piatto di pasta asciutta e basta potessi risolvere a mezzogiorno, alla sera magari un gran piatto di minestra, magari anche con verdure, sì, e basta. Ecco, pensavo che mi portasse a diminuire di peso senza fare magari un intervallo con frutta o sì. E invece poi invece l'illuminazione sì è venuta questa, no, è una cosa casuale, perché io leggendo una rivista qui locale ho letto che organizzavano un corso di educazione alimentare in città. Io sì, abito un po' in periferia vicino a Bolzano. Allora, che cosa hai imparato? Ci dica. Sì, ho imparato, i segreti. È un dottore molto bravo che praticamente lui ci ha portato semplicemente uno schema di una piramide. Sì, sì, ecco, in questa piramide c'era praticamente nel piano più basso, non perché sia irrilevante, le verdure. Frutta, verdure, poi a salire i formaggi erano insieme alla carne. Beh, quindi ha cambiato, finalmente ha dato una piramide complessa in cui ci sono sia proteine che carboidrati. Bravo. Che frutta e verdura. Ecco, che è quello che diciamo ci racconta dall'inizio. Clotilde, e noi dobbiamo imparare a visualizzare, vero? Certo. I volumi, oltre che alla scelta naturalmente degli alimenti, fanno la differenza, dottor Speciani. Sì, davvero, volumi che dovevano essere identificati, precisi, avere proprio un'idea di quanto pesano visivamente, dobbiamo vederli nel piatto. Lo ripetiamo, proviamo a dividerlo in tre questo piatto con una Y rovesciata, è proprio un terzo, devono esserci queste tre componenti che devono essere tutte presenti in ogni singolo piatto, anche se usiamo proteine vegetali piuttosto che se usiamo proteine animali in relazione alle nostre scelte, quindi la composizione volumetrica è importante. Allora, intanto gli inviati si sono sbizzarriti, ci stanno scrivendo in tanti e telefonando in molti. L'ha preso il kit. Certo, adesso detto. Io lo darei anche ad Alessandro da Rovereto, mi sa. Alessandro, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti e grazie della compagnia che ci fate quando noi siamo in macchina. Grazie e Alessandro. Vi ascoltiamo. Ci dica. Io volevo dire un attimo su due cose. Una è il prezzo del filetto, perché 20-25 euro il filetto di vitello, un po' difficilino trovarlo. Noi su Rovereto magari abbiamo dei prezzi leggermente... Siamo andati però su un taglio di carne particolarmente pregiato, naturalmente, no? Alessandro? Quindi direi che sotto i 30 euro al chilo è un po' difficile trovarlo, e l'offerta siamo un po' più su. Poi, essendo io ormai a 60 anni, intervenendo, diciamo così, sul cibo, eccetera, certo è giusto seguire un pochettino alcune cose, però pensiamo anche che dobbiamo levarci qualche soddisfazione. Perché certo. Alessandro, altro che se ha ragione, intanto anche per questa considerazione lei merita il nostro kit dell'inviato, quindi ci ha dato il suo prezzo per il filetto di vitello, ma vedo già che ci sono candidati sulle melone, si stanno già trovando naturalmente sui banchi di mercati e supermercati. Nicoletta, che facciamo? Noi adesso andiamo, la sigla a Parla Chiaro, il nostro GR, poi torniamo subito dopo insieme, a tra poco, seguiteci. Cuore e denari. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate. Cuore Denari Expo, siamo arrivati all'ultima parte di questa seconda puntata del nostro appuntamento del mercoledì, che vuole promuovere l'alimentazione sana insieme alla consapevolezza dei nostri acquisti, e questo significa anche informarsi sul lavoro che c'è dietro a ciò che mangiamo. Debra, è tempo di Mestieri del Cibo. Esatto, eccoci qua che non accendo il microfono. Ogni settimana a quest'ora andiamo a scoprire una delle professioni che ruotano intorno al mondo dell'alimentazione, un settore molto vivace, ricco di opportunità che si sono anche moltiplicate negli ultimi anni. Un'opportunità che ha colto anche il Sole 24 Ore con Food 24, con cui condividiamo il percorso dei Mestieri del Cibo, e oggi è venuta a trovarci finalmente in studio la nostra Fernanda Roggero, che è la responsabile di questa rubrica per il Sole, oltre che di tutta una serie di altri lavori che non elenchiamo perché il biglietto da visita sarebbe lunghissimo. Fernanda, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, la settimana scorsa con il tuo contributo, Fernanda, abbiamo già raccontato questo progetto dei Mestieri del Cibo, però ricordiamolo in breve di che cosa si tratta per chi si fosse collegato con noi solo in questa puntata e male ha fatto, ma può rimediare, può recuperare il podcast della precedente. Ma niente, noi abbiamo pensato di parlare di cibo, visto che tutti stanno parlando di cibo in questo momento, in questi mesi di Expo, col nostro punto di vista, per cui noi comunque siamo Sole 24 Ore, abbiamo deciso di parlarne dal punto di vista dei mestieri, delle professioni che sono legate al mondo dell'alimentazione, e sono tantissime. Ci sono un sacco di professioni nuove, innovative, dai contadini 2.0 a tutta una serie di start-up, ma c'è anche un modo nuovo di interpretare professioni tradizionali, quindi noi andiamo un po', cerchiamo di andare a indagarne. E quindi un po'. Con quale criterio avete scelto poi le professioni che sviscererete, analizzerete, racconterete? La risposta sincera? Sì. La curiosità, le cose che ci sembravano più curiose, più divertenti e più nuove. Che è lo spirito che dovrebbe animare anche il lavoro di un bravo giornalista, noi anche un bravo conduttore radiofonico. Allora direi di andare a conoscere il primo di questi protagonisti dei Mestieri del Cibo. Noi lo metteremo a disposizione anche sui nostri social, ma già è online da questa mattina il primo video. C'è il primo video online sul sito del Sole 24 Ore. Allora diamo il buongiorno e salutiamo un simpaticissimo giovane, si chiama Francesco Orsini, che è, attenzione, personal trainer di Orti Urbani. Francesco, buongiorno. Intanto sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Fernanda, tu come lo presenteresti, come l'hai presentato nel video che conduci tu? Allora, lui tecnicamente non si definisce proprio personal trainer, perché in realtà è un ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna. Però abbiamo già sbagliato, quindi in realtà anche noi l'abbiamo un po' poi definito così, perché si occupa di orti urbani da molti anni, prima all'estero, in Sud America e altrove in Europa, e poi dal 2010 anche in Italia. Fa gli orti sui tetti delle case. Ecco, no, Nicoletta, confessa che non appena io ti ho detto inviteremo questa persona, dice, ma vieni qua che devo chiedere qualche suggerimento. È vero, perché Francesco, tu ce ne hai uno. Speravo che tu fossi qua. Allora, intanto lo invitiamo magari per un'altra volta. Però tra le righe è un invito. Monitoriamo un po' questo fenomeno, no, che sta registrandosi sul nostro tessuto territoriale. È vero che quella dell'orto, Francesco, è una vera e propria mania che si sta diffondendo in tutta Italia. Addirittura sta diventando una mania, da quelli sui balconi a quelli coltivati nelle aree gestite dal comune e tanto altro. Come mai, secondo te? Sì, ecco, è una mania, molto spesso anche una moda, che si va diffondendo in tutta Italia, ma poi anche in tutto il mondo. Pensiamo ad esempio anche alla campagna elettorale di Michelle Obama, in cui la prima cosa che ha fatto poi insediandosi alla Casa Bianca è stata di farsi ritrarre con una zappa in mano. Non è così tanto una novità, se ci pensiamo, perché gli orti erano un componente principale anche nelle città medievali, come poi lo sono stati durante la rivoluzione industriale nei pressi delle fabbriche e durante la guerra, in quelli che erano i cosiddetti orti di guerra, che in Italia ma anche in tutto il mondo rifornivano sia le città che le truppe durante le guerre. Quindi l'orto è sostanzialmente sempre stato integrato nella nostra cultura. Negli ultimi anni ha avuto una notevole risonanza mediatica. Certo. È diventato modaiolo. Allora, prima di farci raccontare da Francesco Orsini come è arrivato a questa professione, volevo solo dire agli ascoltatori che sono in attesa con le telefonate per approfondire gli aspetti precedenti, che fra un po' li ripeschiamo e quindi chiediamo loro un minutino di pazienza. Ma adesso raccontiamo un po' cosa fa il personal trainer dell'orto urbano. Concentriamoci, Francesco, su questa tua professione. Intanto, come ti sei formato? Un po' Fernanda ci ha già anticipato qualcosa prima, ma soprattutto quali consigli daresti a chi, sentendo la tua esperienza e leggendo di te, vorrebbe cimentarsi sullo stesso percorso? Sì, io sono agronomo, ho studiato agraria all'università, poi anche con un master, un dottorato, sempre legato a temi vicino all'agricoltura. E poi ho lavorato molto, diceva anche prima, ho lavorato molto all'estero in progetti di agricoltura urbana, perché l'agricoltura urbana, soprattutto in alcune città del Sud America ad esempio, è un notevole componente che contribuisce alla sicurezza alimentare della città, e poi più recentemente anche in Europa in progetti che avevano molto una componente sociale. E abbiamo coordinato con l'Università di Bologna un progetto europeo che si chiama Ortis. Sul sito, che è www.ortiseurope.net, si trovano moltissimi video tutorial, schede tecniche, manuali che possono guidare, diciamo, un aspirante ortolano o trainer di orti urbani sulla progettazione di orti. Sì. E quindi, insomma, c'è tutta un'esperienza che si è già formata, dalla quale è possibile attingere. Francesco, per quanto riguarda i denari, perché poi sai che io sempre lì vado a parare, quanto serve per iniziare un'attività di questo tipo? Immagino che dipenda dall'appezzamento di terreno che si ha a disposizione, dallo spazio. Dipende ovviamente da quello che si vuole fare, dal livello tecnologico che si vuole avere, nel senso che ovviamente se noi pensiamo di partire con un orto e poi in estate andiamo in vacanza, dobbiamo anche pensare a un sistema di irrigazione, quindi comunque si può partire dai sistemi più semplici che richiedono poche manciate di euro al metro quadro, fino a quelli più sofisticati, magari in cui l'irrigazione viene gestita da un'app sul telefonino, in cui si va poi a qualche centinaio di euro. Chiarissimo, grazie a Francesco Orsini per essere stato con noi, nostro personal trainer di orti urbani, anche se non gli piace, per sintetizzare a beneficio dei nostri ascoltatori, ridiamo a lui questo appellativo. Fernanda, la prossima professione che ci racconterai? La prossima professione è molto divertente, perché andiamo a parlare con un bartender. Bartender, che cos'è? Erano quelli che fino a 10 anni fa si chiamavano baristi, ma adesso sono la nuova professione di moda e stanno soppiantando addirittura le star chef. Le star chef, quindi ma quante parole nuove. Ribaldone, qua dovremmo chiedergli qualche cosa. Ottimo, allora sono degli acrobati. Incredibile, ti aspettiamo la settimana prossima anche con il bartender che sarà protagonista della nostra puntata. Come gli Stomp. Ma sentila qua stamattina come mi si lancia la Carbone. Io sono pazza degli Stomp. Allora, ottimo, grazie a Fernanda Roggero. Grazie a voi. Adesso riparleremo di melone, ma anche di quinoa rapidamente, perché abbiamo in sospeso questi due argomenti. Che cosa facciamo? Sentiamo l'ascoltatore. Sentiamo un ascoltatore. E intanto dico al dottor Speciani di prepararsi, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che, pur mangiando la sera come un cinghiale, al mattino si sveglia come una fame da squalo. Questo messaggio le, sicuramente le dà il là per fare un focus su quello che ci siamo dette, soprattutto sull'importanza della prima colazione, della scelta della composizione, dell'equilibrio dei nostri piatti. Ma sentiamo, che lui si prepari, capisci? Samuele, certamente, per così porta a casa il kit dell'inviato, il dottor Speciani. Samuela da Monza, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Allora, complimenti, è sempre ripetitivo, ma siete bravissime. Grazie. Ha fatto l'inviato per noi. Samuela, stamattina su quale prodotto si è concentrata? Allora, io il melone ho visto, perché il filetto al supermercato dove vado non mi fido di acquistarlo. Il melone siamo sulle 2,50 euro. Benissimo. A mio avviso è sempre un pochino caro ancora. D'altronde se ci ostiniamo a comprare i prodotti fuori stagione, qua molti punti sulle fragole. Le compriamo a febbraio piuttosto che le troviamo a prezzi improbabili. Samuela, le mandiamo il kit e così settimana prossima può andare a fare la spesa vestita di bellissimo. Tutto punto. Benissimo, grazie. Si faccia una foto, ce la mandi. Agli inviati. Un selfie, dai. Agli inviati. Ecco, si fanno una bella foto così noi possiamo sfoggiarli sulla pagina, perché lo faccio anch'io, guarda, non vedo l'ora di vederti, guarda, sono qua pronta a metterti alla prova. Luciano Mazzone, melone, un commento, e la quinoa l'abbiamo lasciata in sospeso, poi dobbiamo lasciare clicca promo pazzi per le offerte. Il commento sul melone è che è meglio aspettare la stagione, sicuramente non siamo ancora in stagione, quindi ovviamente lo si paga più delle cifre che abbiamo detto. In stagione si scende veramente anche all'euro e 50, quindi meno della metà rispetto al prezzo indicato dall'ascoltatrice. La quinoa invece è un prezzo corretto, quello che era stato indicato prima, è sicuramente un prodotto costoso, molto nuovo, costa intorno ai 10 euro al chilo, è un prezzo aveva normale. Però sorpreso un po' Anna Maria, forse perché prima non aveva mai comprata, quindi evidentemente un esperimento nuovo anche dal punto di vista. Anche questo è un po' modaiola, no? Perché la quinoa l'hanno sempre mangiata, adesso è diventato un po' come gli orti in città, gli orti metropolitani di moda. La coltiveremo, che dici? Tu mi insegni, no? Che i prezzi aumentano, peraltro, molto proteica. Esatto, non è un cereale, in realtà è un po' come il grano saraceno, quindi ha dentro una componente infatti differente. Infatti per chi ha le sensibilità dentro al frumento la mette come alternativa. Utilizzata. Ottimo, grazie Luciano Mazzone, buona giornata, alla prossima settimana. Non so se ne vuole andare, però ma lo vedo bello tranquillo. Si diverte. Anch'io mi diverto col cinghiale e con lo squalo. Il cinghiale e lo squalo ci è piaciuto, gli manderei un kit da inviato, guarda. Sì, assolutamente, a forma di squalo, con la maschera sicuramente, ma però lì mettiamo la foto mia di Deborah. Da considerata, quando io sento queste affermazioni, la prima, ho due domande che faccio. Uno, se è bilanciato correttamente al mattino il rapporto tra carboidrati e proteine. Spessissimo queste squalate mattutine sono poi a base solo di torte, di biscotti, di brioche con un po' di tè o caffè o latte a fianco, quindi con uno sbilanciamento enorme nei confronti dei carboidrati. E il secondo aspetto è proprio quello legato invece alla presenza zuccherina. Dobbiamo ricordare che in molti soggetti ipersensibili il rapporto con lo zucchero, quindi con le sostanze dolcificate, può stimolare questo tipo di meccanismo. Castro ha documentato su più di 100.000 persone che quanto più è calorica la prima colazione fatta nel modo giusto, tanto meno è calorica la giornata. Quindi il nostro amico, per là di averci fatto sorridere, e dello squalo con la maschera, con il kit da inviato, devo dire ha toccato un tema interessante che ci ha consentito di riprendere il tema della giornata di oggi. Allora, no, stavo guardando quel signore che fa quella colazione, anche quello che fa la maionese, ma il signore che fa colazione con 300 grammi di latte, mezzo litro di latte e 300 grammi di cornflakes, punto e basta. È una colazione ricca, ma sbilanciata sui carboidrati, nel senso che intanto il latte di per sé, come sanno tutti i bambini che nascono, ha un buon bilanciamento carboidrati e proteine. Poi però se ci mettiamo dentro i cornflakes, sbilanciamo verso i carboidrati. In una visione equilibrata, un uovo sodo dall'altra parte per bilanciare un po' le proteine potrebbe iniziare a fargli avere meno fame e ad avere meno stimolo insulinico. Uovo sodo, albume e tuorlo. Albume e tuorlo. Tutto, ragazzi, mangia tutto. Stiamo trovando la carenza di vitamina D pazzesca, e poi c'è chi toglie il tuorlo, che è una delle fonti naturali più ricche. Dai. Abbiamo attivato anche gli ascoltatori sugli orti, Fernanda, te lo dico già, perché Max da Brescia voleva addirittura sapere che cosa ne pensasse il nostro trainer degli orti verticali, dei quali io non conosco nulla, tu ne sai? Sì, io ne so, anche lui ne sa molto naturalmente, e li fa gli orti verticali. Una cosa che secondo me è molto interessante e divertente è fare l'orto sul terrazzo utilizzando le bottiglie di plastica. è molto comodo. Quindi per chi vuole cominciare ad avventurarsi nella composizione del proprio orto, magari a un piccolo spazio, con dovremmo guardare io il filmato. Io ho quasi tre fragole nel mio balcone, rischio di fare indigestione, però ve ne porterò metà per ciascuno, un po' a te, a Marco, Lombardo, Isotta e io. Isotta, vabbè, sai che è super macedonia. Ecco, perché una fragola di quelle proprio quelle più belle la tengo per la mia amica, per la nostra amica Lella Costa, che è in linea con noi. Ciao Lella. Ciao Nico, ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Una fragola intera. Una fragola intera delle tutto mie tre. Benessere. Senti Lella, ambasciatrice di Expo, sì. Noi vogliamo chiudere la puntata con l'editoriale di Lella Costa. Perbacco. Ecco, perché vogliamo che tu ci racconti che cosa ti è piaciuto di Expo, il messaggio che ti vuoi portare, che ti porti nella tua quotidianità. A me è piaciuto essere contattata appunto ed essere ambasciatrice portavoce qui, cioè le donne di Expo, proprio perché penso che visto che il tema è nutrire il pianeta, se non lo lasciano fare a noi non andiamo da nessuna parte. Credo che ci sia nel femminile una quotidianità diversa, un'attenzione, un concetto di cura e di condivisione anche di bene comune molto più radicato e molto più naturale, e quindi credo che ci sia questo di bello, che il punto di vista femminile è soprattutto in questa esperienza. Stiamo perdendo un po' la voce, ma purtroppo sono sì. In viaggio. No, ma lo sapevamo che eri in viaggio, però... ma il messaggio è arrivato e noi volevamo averti qui con noi, ma ci collegheremo naturalmente presto ancora con Lella Costa, che invitiamo a venirci a trovare nei nostri studi. Lella, buon viaggio. Pronto? Grazie, sì. Eh sì, abbiamo qualche... sì. Ci sono ancora? È sì. Una domanda esistenziale da me. Possiamo approfittare per chiederle un po' se ci può raccontare, Lella, che idea ti sei fatta anche per esempio, non so, del Padiglione Italia, l'hai visitato? No, allora, io in realtà sono manco moltissimo dal punto di vista, perché siccome sono in giro, tra l'altro a parlare di salute alimentare... Io peso la salute, vero? Sì. Io peso la mia salute e contemporaneamente sto preparando una cosa molto bella per Immagine Musicale Fiorentino, quindi purtroppo... non sono ancora riuscita a vedere, però ho seguito l'impostazione e poi mi piace molto che a ottobre uno degli ultimi eventi paralleli, diciamo, Expo sarà Terra Madre Giovani, organizzata da Slow Food, quindi l'incontro di tutte le comunità che producono il cibo proprio a Milano. Credo che quello sia il percorso più interessante, la qualità del cibo, la cura del cibo, l'assunzione di responsabilità rispetto soprattutto allo spreco, che ripeto soprattutto nelle donne è pratica quotidiana. E ancora una volta mi piacerebbe che si partisse da noi e si imparasse da noi. Noi siamo assolutamente d'accordo con te, Lella. Ne sottoscriviamo proprio punto per punto. Grazie a Lella Costa per grazie essere stata con noi. Ciao Lella, a presto. Buona giornata. Allora, stiamo andando verso la chiusura. Chiudo con questa bella testimonianza di un ascoltatore che si firma Oscura Nebulosa sul nostro profilo Facebook e ci racconta, in realtà è Carlo da Latina. Mi confesso, la mattina mangerei un piatto di pasta alla carbonara, non scherzo, non lo faccio per decenza, ma quanto mi piacerebbe tristemente, bevo solo un caffè, bevo tanta acqua. Quello del parmigiano buono sopra, ma cioè, e però che sia pasta integrale, in questo modo bilancia correttamente. La mangi e si accorgerà che ha meno fame nel corso della giornata. E magari perde pure qualche chilo. Esatto. Guarda un po', ecco. Con gusto. Ecco. Ascoltando Cuore Denari, poi con più gusto ancora. Gli mandiamo il kit dell'inviato, quasi a Carlo da Latina. Guarda. Direi di sì. Allora, grazie, un saluto generale. A tutti quanti, anche a noi, che ci ritroviamo qua domani mattina puntuali alle 11 con Cuore Denari. A tutti. Una buonissima giornata.